regno di quelli ricchi. Quindi si fa e si vede bene. E ce l'ha fatta, come ha preso i sportelli si vede. E in effetti tu basterebbe mollare solo un dado, quello che c'è attaccato alla pannino, l'altro non ce n'è dado, c'è il morsetto di gomma, e te ne esce tutto un pezzo. Domani sera, quando vengo a vedere una cosa, lo controlliamo, se si può fare te lo faccio. Ma non ho pappagallo, io ho capito perché, se ora gli ho fatto io, non c'ho più da pappagallo. Pensavo di ricordarmi, l'ho fatto io. Io, beh. Gaba. Vabbè, così poi ti porti via quella cosa, tu porta bagagli se la macchina ne hai. Carichiamo, se porta bagagli, quella porta tanto già ci sta tranquilla. Quella porta il coso, è quella affare da verniciare, se si può verniciare, vernicia anche quella affare. Sì, va bene. Andiamo. O si può rattoppare o ricostruire quel pezzo lì, senza cambiare tutto il pannello, già fa. Non lo so, lo devo vedere, se non è molto, sì, ci si potrebbe anche rattoppare, struccare, se mantiene la crepa molto grossa. Dopo che se mi guarda, lei allora me lo rifacciamo tutto. Perché una volta un amico mio è venuto a casa e mi avevano chiuso la porta a chiave, mia figlia, mi sono incazzato. Mi sono incazzato e gli ho dato una spallata e l'ho sfondata la porta. Mi è saltato un pezzo, questo amico mio è venuto, e già buscato poi, perché lo voleva aprire. Questo amico mio è venuto e me l'ha fatto, me l'ha ricostruito il pezzo, tutto a metrovisio, ma di me che è bravo, non si vede nulla, sembra fatto in legno. Sì, la vetrovisina fanno sempre dei lavori di lusso. Era proprio carteggiato a livello che non si vede manco la giuntura, niente. Sì, ma in effetti lì perché è bianco, si è potuto fare. È bianco la carta. Poi le lacchature si possono fare, al limite ci mettiamo d'accordo, tutte le porte per le lacchi tutte quante bene, come si devono fare. Già lì che ci sono perché. Oh, ma per dare una rinfrescata, no, se tu le vedi sono, cioè mia moglie lo sa come ti sorriveva, per dare una rinfrescata a questo e quell'altro, dare una passata, capito? Cioè, noi abitiamo già un po' di anni qua, 12 anni, quindi intanto una rinfrescata ci vuole, là, già. Se la vuoi vedere nuova alla casa e non la vuoi trascurare, così. Beh sì, certo, e dopo un po' si giallisce sempre. E se è buona la laccatura è più difficile, che la camera da letto per dire ho ingiallita. Ci c'erano i mobiletti del bagno prima bianchi, poi si sono fatti variare in casi migliori con un fumo che si sono fatti tutti gialli. Infatti via hanno rifatto tutti e due i bagni, nel senso di mobilia, roba del genere. E ho messo la manina con i mobili tutti e due i bagni, capito? No, se è proprio il tipo della tinta, non la sorta che diventa gialla, eh. E dopo più luce prende e prima diventa. Se dove il punti dove prende meno luce resiste. E visto, e là però luce non c'era, perché io nel bagno proprio, nel doppio servizio c'ero la finestra, nel bagno proprio è attivo all'altro appartamento. E hanno fatto solo una ventola che porta fuori gli scarichi di fumi della vasca e cose, capito? Questa ventola vortice ti porta via tutto qua, ti fa pure. Però non c'è finestra, quindi che luce mi può uscire così. Proprio la tinta, ma tinta carente via sì. Allora, quando la tinta non vale nulla, è come mio cognato che ha fatto fare l'esterno della casa della villa che c'è al mare, e me l'ha detto il bianchino, gli ho detto di mettere questa tinta che gli dura la vita. Lui per risparmiare 4 lire ha voluto mettere una tinta che non serve a nulla. Io dice questi lavori non li faccio nemmeno perché poi se dico chi gliel'ha fatta questa, come l'ha fatta tale cina, allora non lo chiamo perché si è scorticca dopo due anni, io glielo ho detto. Adesso dice che si è scorticcata, ma c'è vado, dice guarda come si è fatta la tinta, invece me l'ha fatto male. Ma io ti raggiungo che la tinta era di quella che non serviva, ma io addirittura non ne faccio più di questi lavori perché mi discrimino io. Allora, già lo so sì com'è la cosa. Capita così, a volte dici, guarda, per farlo così ci vuole tutto. Dice, ma non posso, a me ti succede così, non so come sì, non lo so io sì. I materiali buoni costano, aumentare, a fare un lavoro, se non lo posso fare, però una volta che lo fai, lo fai bene per sempre, o no? Alessandro! Qualcosa. Oh, oh, oh, oh, ma dov'è? ecco qua. Sono segnalato, questo. Buonasera a tutti. Io ho il televideo, cioè l'anziano, questa qua. Allora, dice non si vede più, si vedono numeri, no. Cosa ha toccato? Lì nulla. Vabbè, hai visto che tu il televideo, ha cliccato il tasto, no? E se il televideo, lì dietro non l'aveva toccato. E la sola che l'aveva toccato. Qui sei. Ci metteva la macchina, non mi rendeva, lo sai? Tu ti rendeva? No. Questo punto è tutta la cosa. Lo so, Antoine, però vende poi più quanto la sua. Ehi, ma se per chi c'è la capiscivia, lui è veramente... E vabbè, quello lì è un altro conto. Comunque, l'ho attaccato alla Anton. Va bene, va bene. Ha una radio di allucinante quella parte, di quella capsula lì deve essere buona. Ah sì, diciamo ce l'avevo anche noi, c'è bruciato così, E beh, infatti non ce l'avevo. Non lo so dove ce l'ha messa. Scusate la capsula per il microfono, di quel baracchino lì che fa un bel bene. Ragazza, noi infatti mi sa che proviamo e la studiamo. Una modulazione a me ce la dovete buttare, pensate a me che c'ho l'apparato che poi mi servono dei pizzi, delle cose, capito? Ma fai altro, allora che era fatto della forza. E quella capsula è una bomba, fa benissimo il radio. Sì, la voglia. Dimmi, aspetta che mi attacco le cuffie, cazzo, se non mi accorto, ma aspetta. Vai. Portateli, non ne hai. No. Ma non ne ha mai avuto? No. Non ti piace, eh? Va, che capisce qua. Lasciami lì. Questa, no. Aspetta un attimo, no. Da 50. 40 sì. 40 sì, ok. No, tu no. No, fa un culo. Cazzo, questa qua. 46. Ok. No, ma... non lo dovevi avere il portatile, se volevi partecipare ai servizi che faceva, il CB dovevi avere tutti i portatili. Ma comunque lì lo vendono ancora. Ci sono in vendita molti portatili, anche Alan. Sì, ma adesso non te ne fai più nulla, allora te ne vai. Prima li usavamo per le cavalcate, partecipavamo alla cavalcata, pagavano fare la partecipazione al servizio della cavalcata. Pagavano? E allora? Perché non si prende più nulla, E adesso mi pare che lo facciano loro, non lo so, si hanno preso i volti tutti loro, quelli dell'organizzazione. E noi facevamo andare avanti i gruppi, capito? In prima fila c'erano i CB con le macchine, c'erano i CB a piedi che partecipavano a tutta la cavalcata, camminavano a tutta la cavalcata. Ragazzi, porca miseria, non si è più organizzata cose del genere, perché anche se pagavano una cosa buona. I 35.000 lire ti davano, non è che ti davano chissà quanto, mi hanno tutti. Vabbè, ma c'è anche una partecipazione. Vabbè, che io non è che sia molto amante di queste cose. Bisogna essere, bisogna per il capo vendere queste cose, non è che puoi far andare il primo gruppo e poi farlo staccare altri che ci sono. Puoi farli andare compatti, capito? Via radio ti sentivi e dicevi guarda che sto facendo partire il gruppo, fai partire gli altri. Erano tutti collegati, capito? Ma quando partì loro partivano anche altri, era uno dietro l'altro. Se no poi risultava che uno camminava più forte, l'altro più piano, capito? Si formava il buco. Devo metterlo in linea, cioè devo fare un certo di cose. Agostino aveva me lo ricordo ancora, il 127 blu con l'antennone di minimo ghiera che si anteneva 3 metri. Minimo, se non di più, 2,75 metri, 2,75 era forse, era in acciaio con mollone grosso, ma grosso mio, la foghiera mia era. E sembrava la macchina dei carabinieri, allora i carabinieri la cifretta ce l'avano così. Ma lui l'aveva messa dietro, sopra il parafango della ruota, no? Di dietro, di fianco, là. E tendeva lì, risultava anche alta, figurati tu, si dà buona tra i capituri a guai. Allucinante. Si risulta a volte dal parafango, figurati se la buoni sopra al tetto. Vabbè, non c'è mai grande. aveva messo una volta il diabolico sopra fuori strada, dovevi vederla, per acciaio il coso, mi ha fatto la staffa in acciaio di chi si grossi, per mia bizza, l'ha messa su parafango. Senti, la uomo, chi che la faceva quella? Tanto, non me lo chiedere perché non me lo ricordo, però era tutto in acciaio. Mollone grosso grosso c'aveva, non ce n'è adesso col mollone così grosso, So, tu immaginati le tue mie mani unite e allargate pure. Immaginatele. Toccando la punta delle dita una con l'altra, era così grosso. E ma deve essere una roba americana. Non lo so, non lo ricordo. Comunque la 275, chi ha vissuto quei tempi se la ricorderà sicuramente. Agostino Ago. Agostino Ago. Ce l'aveva lui. Che ha fregata. Non mi ha fatto di nulla, no? No. Mi servito una minutata. Ma non è... l'apparecchio l'aveva venduto, l'apparecchiatura. Pare che l'aveva venduto esattamente Angelo Cerchione, c'aveva un apparecchio base tutto bianco, bellissimo, della mira. Che mi ha fatto questo? Angelo Cerchione l'aveva venduto, non so qui che fine abbia fatto fare Angelo, se ce l'ha ancora o no. E magari verrà ancora. Ma andava in casa, Santa Maria di Pisa, per caso. Angelo, ma qui avevamo le case, non lo so dove dovevate abitare, perché prima abitavo da una parte, poi avevamo le case, Vitto, avevamo le case. Sì, ma magari ce l'ha ancora, fermo. Non so, sì, magari ce l'ha venduto anche. Insomma, adesso da un po' che non lo vedo, Angelo Cerchione, ma quando è morto Giulio, non l'ho più visto. Che fregata. C'è un dirigente che la cosa la tiene, la sempre. Era lo zio di Giulio, era. Zio? Non lo so, lo zio di Giulio era Angelo. Non lo sapevo, se non me l'avevo mai detto. La pagava, sì. Sono di sicuro io. I due nipoti si frequentavano, figura tizio, stavano insieme da una sessetta. Quindi, o meno, un anno in più, un anno in meno, dai. Però si frequentava, ecco. Lui, Franco! Franco, quello alto magrullino, non so se lo conosci, che la ragazza fa bugirato. La ragazza fa bugirato. Franco. Ci vestiva sempre di bianco quando era al cinema. Oh, non me lo ricordo, no, già sono passati tanti anni. Come fa a ricordare tutto il piccolo? Un di loro sì che me lo ricordo, a Burga. Divertene nel ricordo. Già me lo ricordo, ma vagamente me lo ricordo a voi. Ah, vedi. Io invece di te mi ricordo bene, mi ricordo che ti assomigli molto a quando eri piccolo, che non è cambiato molto di viso, di cose, fisionomia. E che eri una bilandra che non finiva più. Che di tanto Pierpaolo ci diceva, vedi che devo andare alla scuola, che mi ha chiamato il direttore, combinando da che cosa is. Già me lo ricordo. Prima di modi di rame. La mia moglie è rimasta sempre impressa con la frase, perché l'aveva fatto il padre di Manola, che erano i dossi di Davalla, non si potevano mangiare, e poi l'aveva fatta la mamma di Edoardo, e quelli erano buoni. Stanno molti chilometri, i piedi di Daniello vogliono così, che si sciolgano in bocca per essere buoni, no? E tu lei cosa ha duro? Grazie, ma di su cose molto di rammenta. Se fosse il cliente arrivi. Ma è giusto, che l'ha fatto mia bella, non te lo ricordi? No, non ti arriverà, siamo messi tutti a ridere. Ed è esattamente quell'anno che mia moglie è caduta con Manuela, si aveva rotto la gamba, la notte di Capodanno. Manuela. Ah, praticamente un anno avevamo Manuela piccola, Marco non c'era ancora, Manuela era in braccio, l'ha avuto sino 8 mesi, nemmeno un anno. E praticamente Liliana stava scendendo, ce ne stava mandando, era tutto finito, c'era la cena di Capodanno, avevamo tutto finito e coso, l'ultimo gradino che c'era l'ha preso nell'angolo, stava cadendo e si è accorto di cadere, allora ha tenuto in alta Manuela per salvarla, si è rotto malleolo, ma è stata 3 mesi ingessata. Gianni, quanto è andato qui ora? Mia figlia c'ha 17 anni. Quanti anni sono passati dalla vostra? 17 anni? Sì, 16 anni e qualche cosa. Già può coincidere, capo. Certo che coincide, adesso diceva cazzate. Così, perché lei non c'aveva manco un anno, 8 mesi, 9 mesi mi pare che avesse. Lei ha tenuto in alta Manuela per non farle male, e per non farle male a lei si è tenuto tutto il peso sul corpo e ha fatto la storta col piede, era rotto il malleolo, è venuto a cagare che era il gotto di pipa, si è venuto a buttare un brutto soccorso, vengo anch'io, vai, stai qua Luciano, no, vengo anch'io, Liliana è anche un'amica mia, questa è quella, il gotto di pipa. È una dura cosa quella volta. Dura. Tu immagina che io non sono a casa perché mia suocera, mia moglie prima era all'ospedale, bambina era da mia suocera, io ci vado a lavorare, andavo all'ospedale, poi passavo a trovare a Manuela per non lasciarla sola perché poverina aveva bisogno anche di me. E la domenica me la prendevo, me la portavo in giro, cose. Poi quando Liliana è uscita all'ospedale, io speravo che venisse a casa, invece. E te cosa fa a casa da sola? Non si può muovere, niente, la porti a casa mia e a lì a Manuela. Io ho giocato, mi sono buttata da giù a casa. Quello che volevo io era riunire tutta la famiglia di nuovo a casa. Non vedevo l'ora che succedesse quello. Non ci aveva posto per me. Gaio. Ma come stai sento? Non ci aveva posto perché non ci aveva posto o non guardia dopo fare questi punti? Ma non lo so come sia. Io il posto quando non ce l'ho lo faccio. Se voglio una persona lo faccio. A posto di drum intera lo voto. Poi gli altri non lo so come fanno. Allora mi pare che tutto partito va. Se non si voleva mettere in casa troppa gente, non lo so pure com'è andata. Ho fatto sa che usavo la lavatrice di notte, cucinavo, facevo tutto, andavo a lavorare, mi stavo stressando, mi stavo esaurendo, poi dovevo andare a trovare mia moglie a casa. 3 mesi così oggi passato, non ti riguardo. Tempi passati sì, però capo. Anche un po' coerente. Poi vabbè, si dimenticano le cose ancora. E già, aumenta. Cosa vuoi va? Ma torna alla televisione, c'è un vicino. E che cazzo lo vedo? Oh, che palla. Lo so già. Insomma, non hanno dato il fight, un boom, Maruga. Che lì andiamo a rifondere Moraiano, è nato un poco di benzina e poi muovo. E te sono pure due là, adesso, vedo. Sei un fastidioso, io sono sempre qua, raga, io sono a camera. L'hai acceso adesso. Ma quando mai dove quindi rubirla così e rompendi la palle? Ma boh, non te ne fa la vergogna, ma sentendo stai, brutto gaggio. Boh, adesso puoi rompere il palle che vuoi. Ma adesso va bene. Com'era la frase? A mani estremi e rimieri. Tra l'altro ci stava una cosa qua, su internet. E John Frank. È andato a casa? Sì, adesso. Ah. c'è paura dal pause che gli si cazzate. Non fa niente, ammazzato. Dunque lo sento sotto da Alessandro. So come mi senti? Sì, ma la musica è bassa. Tranquillo, adesso vai bene. Ci avevo da fare, la macchinetta spenta, c'era. Non me ne ero reso conto neanche io. Allora, ma lei subito hai detto vabbè, cosa ti dice? E questa radio è bella, adesso qua. Ogni volta che ci sei ti rompe le balle. Ma che sa che è? Ma tu lo conosci a questo, che andiamo a fare il regalino, andiamo a fare, li portiamo la sorpresa, cavolo. Se ti vuole così bene. Tu conosci la visita di Giulio. Già ho capito già. Domani li porto le scarpe, li porto. Ma che fa? Dove sono Edono? Due sono. Allora. E fino a che si fa uno scritto, perché se la rompono le scatole, non la rompe solo a voi, non la rompe a tutti. Si fa uno scritto, si fa la denuncia e via. Molto ci vuole. Non è due, si va da tutti e due. Il problema non vennello. Ci mettiamo d'accordo, mettiamo tutte le firme e andiamo alle scomposte e denunciamo. Se ne l'ha venita da voi. Però se per una multa di 2.000 euro, di 3.000 euro, va finita di rompere le scarpe. Ma sei già ora, Farla, basta fare due righe, scrivere, e poi tutti quanti firmano. Due righe volevo dire un capo. E io ne richina, come ti dice che è rotta, una ceccia. Aspetta, sto cambiando l'accendino, ma che non dice più niente, visto. Ma se tu ce l'hai 45 lì. Prende il accendino, ragazzi, mezzo vuoto. Sempre date di noia. Ah, tu il 45 ce l'hai? Possiamo momento no già. No, ce ne saliamo lì, mi capo, e fatelo lasciare, così almeno. Se tanto ne ha due o tre, tuo padre che salgono lì, te lo fa lasciare uno. Così almeno quando capita proprio che ha. Sto pensando se si poteva fare questo, l'altro che ho. Però più vecchio fai modificata. Che tu che faccio così? Se si poteva fare, ma se comincia devi personalmente essere attivato per si vuole fare. Ma non sono riuscito a percepire cosa vuoi dire. Perché c'è ammortizzate che non so se si possono mettere, se si può mettere, ma credo di sì. Che cosa vuoi mettere? Quei canali sotto, sopra. Ma in quale? Nell'altro apparecchio. Non c'è molta attenzione, no? Ma la sede di te, ne ha subito un filaiai. No, c'è un apparecchio che io sono molto intenzionato a metterlo in canale, capito? Non so se si possa fare, perché tu c'hai tanto un po' strano, hai capito? Non ho capito niente, perché mi c'è staccato l'auricolare, prima gli acchiappava, ci ho messo tre ore. Allora, io c'ho un altro apparecchio, cioè... Non so se si possono mettere i canali. Che no, è il problema. Allora, il problema è che non è come la 48, c'è altri tasti. Ah, tu mi stai dicendo per commutarlo da canali alti a canali bassi, così è. Brava. Vabbè, invece che usare il commutatore così, ci usa quello a pulsante ed è la stessa cosa. Ti toglie un filtro. Quindi dove c'è il filtro ti fa la stessa cosa. Vabbè, dovrebbe andare bene, non lo so, andiamo a vedere. Però ti mettono un tasto dietro, lo muovi, tac, e fa. Vabbè, si può fare anche così. O sopra le cose che è più comodo, sopra c'è il frontalino, sopra del ferro, per fare un buchettino con la trappa, infilano questo interruttorino, l'ho già visto io fare. Allora dovrebbe funzionare, dai. Sì, lo fanno, lo trovano il metodo FTP. E se trova sempre il metodo. È una cosa che non si crede, questo è un imbecille. Ma da tanto di giorni, Domia, non fa nulla. Non è vero che non si vede niente, brutto scemo. Guarda, questo va più l'energia. Sì. questa monete la brutto guascio. Mi la gioia di tui, mi sono cancare già per unito. Chi mi dici? Io se te lo fare, tanto. Al momento non vuoi fare nulla. No. Godendo ci sta brutto scemo che è. Ehi, ehi, baffa. Cosa dobbiamo fare? Se una persona è malata di gatto, dobbiamo fare, no? Ma comunque, perché se è così l'inglese già va bene, no? Non mi disturbate di tanto. Antonio, vedi, ti te lo ricordo che la mano è portata le sigarette più o meno. Boh, ok, lo sono stato, non me lo ricordo. Tanto 3:30, così. Ti ho mangiato le sigarette in una serata, ne ho consumato 18. Ma non hai più? Due ne ho. Cioè, che ci non sei fumato, in 2 dita hai fumato tutto un grado. Perché quando la prendo devo poi lasciare 2 pacchetti. Sono venuto a Ivano. Se no, se ne vedo un che è brutto. E siamo impazzisci. Sì, sì, mi alzo anche la notte a volte a fumare. Mi sta facendo anche la notte, per volte non riesco a dormire e mi alzo a fumare. Perché? Poi alla finestra, no? Sarà che era. Perché non fumi più? Prendere! Non fumi, Cristian. Non fumi più. Allora che mi dirà se non fuma? lo so, ma le appunti si negano tra gabba, cacchi lì, allora lo smettiamo. Perché vuol dire quello che ci avevi giuro a nuoro? Mi ha fatto. Tu te l'hai venuto? Ma perché, cazzo? 140 era. Vabbè, ma va bene o male così, là. C'avevo anche il coso, l'accordatore incorporato. E se lo mette dentro il campo. Saulito, cazzo. Non c'è a fare il buono e dritto. Cosa c'è? Cos'è? Radiamatore. Ah, allora. Se radiamatore non c'è niente da dire. Quello trasporto. Caso. Per lui mi serve cercate di regolare un po', vediamo un po' se è quello che dico io. Come intendi già? Cosa? Mi sperimentendo il tofu. E cosa stai sperimentando? E cosa vuoi che ti dica? Allora, praticamente il rosmetro, invece di metterlo prima dell'affaretto, lo sto mettendo dopo, capito? Prima l'attacco l'antenna, dopo l'affaretto e da poi il baracchino. Lo piazzi, piazzandolo. Allora, oh, vuole prima? Prima quando però? Prima tra l'apparecchio e lui o come fai tu? Io ce l'ho prima, tra l'osmetro ce l'ho prima del coso, lineare, più lineare va l'apparato. Ma quindi ti sfasa, perché ti fa l'ingresso di quello che c'è scritto di parecchio, no? E ti dice, lì ci devi mettere l'antenna invece, capito cos'è? Ti sfasa. Dove ci devo mettere l'antenna? Allora, dove c'è scritto tras, no? E dopo c'è ante, che vuol dire antenna, e di qua trasmissione. Ecco, tu devi attaccare la trasmissione dove ci vuole l'antenna. Beh, è così. E se no come fai? C'è scritto antenna, devi attaccare l'antenna dove ci vuole l'antenna, poi c'è la trasmissione. Ma dopo alla fin fine ti risulta, allora guarda, vediamo un po', scusa un attimo. Arrivo ci minuti. Che vai, io rompolo! Cioè, tu quando misuri le stazionali, che è importante? Se c'è lineare devi fare, devi misurare sempre la lineare, non solo l'apparato. Cosa dite adesso? Misuri se vuoi bene, ma vabbè, scusa un attimo, che sto cercando di capire dov'è che c'è un'imperplessità. Cazzo, come la pisci? Ho capito, no, mi stavo ascoltando o non mi stavo ascoltando, dimmi. Alessandro mi stava chiedendo se... Dove se io mettevo, se ci voleva prima l'osmetro o prima del lineare oppure dopo. Io lo metto prima, praticamente, poi devi sapere che ti tre insieme quante stazionali ti danno, quindi devi per forza metterlo così. Ah, devi fare. Ci mette dopo l'osmetro, non prima. Dopo. Ascolta a me, allora praticamente trasmissione e dopo va attaccato dove c'è l'attacco del lineare e va antenna, capito? Allora qua, allora, sì, arrivo un po' di confusione io, va. Allora, antenna amplificatore, pure l'amplificatore all'antenna amplificatore, poi l'uscita dell'amplificatore al rosmetro baracchino. Ma così sto facendo, mi esce che lo provo, mi va. Così tu. E sai, sta venendo un dubbio, allora, amplificatore, ci va l'antenna, perché devi passare in qua, un dubbio. Lo, meraviglio di te. No, solo. Allora. Ecco, scusa, se c'è l'amplificatore manda in watt, li manda praticamente dopo, cioè sopra, li manda sopra al barometro. No, al contrario. Luca, tu misuri le stazionarie, più di quelle dell'apparecchio insieme all'amplificatore, oppure dell'apparecchio solo. Mi segui? Cioè tu devi misurare tutte e due insieme, devo mandare prima al cosa, al rosmetro, se no ti misura solo una cosa. Posso? Già, mi stai sbagliando. C'è qualcosa, mi sto ascoltando già da un paio d'ore, buonasera a tutti. Antenna. antenna rosmetro, cavo di antenna ad antenna rosmetro. Ok? Quindi l'antenna, il cavo di cedro va attaccato, dove c'è l'antenna rosmetro. Lo spezzone dal trasmettitore del rosmetro alla antenna del lineare. Il TX del lineare, quindi l'uscita del lineare all'ingresso del baracchino. Devi misurare tutti e due insieme e vanno a rosmetro. Se tu lo metti dopo rosmetro ti misura solo una cosa. Ma così è come stavo dicendo io, come dice Gianni? No, come detto Claudio, avete sbagliato tutti e due. Ti spiego già, perché le stazionarie vengono misurate in base al watt che tu gli dai. Se tu attacchi un lineare prima del rosmetro, lui ti deve dare la percentuale di rosso in base alla potenza che tu gli stai mandando. In quel caso, come stai dicendo tu, lui ti manda il rosso in base allo spezzone che c'è tra l'apparecchio e il rosmetro. Non ti darà mai il rosso che c'è tra lineare e l'antenna, e quello è molto grave. Allora io ho attaccato lo spezzone, allora, l'antenna al rosmetro, lo spezzone che va dal rosmetro l'ho attaccato al lineare, quello del lineare l'ho attaccato all'apparecchio. Allora non ci siamo capiti. Allora, partendo dall'antenna, prima ci va il lineare, poi ci va il rosmetro, poi ci va l'apparecchio. Gianni, è molto semplice, il tuo cavo di discesa dell'antenna lo devi attaccare dove c'è scritto antenna ingresso rosmetro, antenna c'è scritto, il cavo tuo dell'antenna deve essere attaccato all'antenna del rosmetro, lo spezzone, l'uscita del trasmettitore dove c'è scritto trasmettitore sempre nel rosmetro, lo spezzone va attaccato dove c'è scritto antenna lineare, l'uscita del lineare dove c'è scritto trasmettitore sempre nel lineare va attaccato all'ingresso del baracchino, altrimenti non ti sta segnando proprio niente. E così ho fatto io, scusa un attimo se mi state sentendo, così è piazzato come sta dicendo Claudio, come sta uscendo, bene? Benissimo, l'importante è che ti segni quello che ti deve segnare a te, non è tanto l'uscita, a te ti deve segnare quello che ti deve segnare. Certo, non è un stazionario, allora è perfetto. No, mi interessava solo chiedere questo, perché era lì, stavo incervellandomi un attimino, non riuscivo a capire questo. Però alla fine ci sono riuscito a vedere come sto dicendo io, perché segna bene, perfettamente, così. Va bene, tu Gianni, il cavo di discesa l'hai attaccato dove c'è scritto antenna lineare o l'hai attaccato dove c'è scritto trasmettitore? Vai bene, ciao Claudio. Buonasera a tutti, non vi sto ascoltando, ma non ho nessuna attenzione ad entrare, ma sono intervenuto giusto perché è meglio appunto che queste cose ce le diciamo, sia che pure perché anche una volta l'ho sbagliato, l'ho fatto danno. Succede. Cavolo, io ti ho visto, ti ho salutato, no, non te ne sei accorto. Tanto, sono buso, mi sono io, e sono assente per quello, ho mille cose da fare. Ho rubato funzionamenti a tricche e ballacche, non ti ho manco visto, per quello stasera da giù di tu, cosa mi dici controllendo? No, ci mancherebbe, no, perché ti ho visto. Intanto sono proprio saltato, figurati, sto lavorando come un mega, non riesco a fermarmi 5 minuti. Scappa, sempre di casino, non capisco, si è fatto la maretta. Accetterò il procedimento e ciccia, dove ticchia. Comunque, forse mai visto giù da Antonio, al bar, allora mi ero appena fermato perché se c'avevo quel giubbotto rosso o l'altro stavo uscendo a lavorare. Allora, stava Antonio. Io la stavo uscendo a lavoro. Ma presto, parti. Sono state l'una, più dell'una, dai. Devo lavorare, sto uscendo. Gianni. Controllando, un attimo che mi assento. Di fatto, tutte le radio andavano messe, ho fatto la fotografia con digitale, adesso vado a mettere nel sito dei radiomotori dove ci sono le foto dei radiomotori. Voi andate a vedere. Ah, è sistemato tutta la pista, va? Il sistema giù, era ora, tu l'hai aperto l'armadio, era nei gianni. Ehi, io mi stavo controllando tutto, mi avete messo la paranoia, è giusto il mio, va? Beh, non avevo dubbi. Vabbè, io a me mi sono felice perché detto, magari ho fatto qualche cazzata e... Quella poi non c'è problema a tutto quello che deve dare. Ricordatevi tutti, perché è capitato anche a me negli anni passati, l'antenna di discesa va sempre attaccata quando in mezzo c'è un lineare o non, per misurare bene le stazionarie, per darti quello che hai in antenna, l'antenna al cavo discesa va sempre attaccato all'ingresso del rometro, quindi dove c'è scritto in parole povere antenna, nello strumento c'è scritto antenna, poi lo spezzone va al baracchino, oppure se c'è un lineare di mezzo, sempre la stessa cosa, lo spezzone sull'ingresso del lineare e poi l'uscita direttamente al baracchino. In modo che quando tu schiacci la portante sai quanti watt c'hai in antenna con lineare e quanti watt hai in antenna senza lineare. Altrimenti non fa, ti misura solo una parte. Ma il fatto che poi poteva anche pensare, cioè, il fatto che con lineare ne misuri di più di stazionare, che te ne dia 1 e 2, 1 e 3, e senza lineare non te ne dia quasi 1 e 1 nemmeno, vuol dire che funziona. Normale, l'aumento della potenza ti porta a rilevare qualcosa in più di rosso, ma niente di particolare. Benissimo, d'accordo, allora io mi ritiro nuovamente. Scusate l'intervento, la più cordiale, buonasera a tutti. Non vi ascolto volentieri, ma non riprendo, ma intanto non so cosa dire, vai un gabbo buju, non comprendo accidenti. Ciao Antonio, Luca, Franco, Alessandro, mi sembra, ho sentito poc'anzi anche a Gianfranco, se c'è Pierpaolo, a te Gian, insomma tutti qui che siete qua, riprendi Antonio. Claudio che si allattano la 27 per quello. Non è perché posso sapere che devo fare chi esco dal 27, quindi la diamo ancora via. Ma è da, naturalmente c'è da impostare, da fare, perché non è fatto per quello. C'è da lavorare, tutte le cose c'è da lavorare. C'è da studiare per fare tante cose, c'è da lavorare sulla radio quando vuoi imparare ad usarlo efficientemente. Altrimenti rimane, tu lo accendi e rimane così come. Perciò tutto lo radio c'è sempre tanto tanto lavoro. Merita Luca, merita, tu già lo vedi nella fotografia che fa un po' uscire nel cipolle, ma tu li ti ho detto. Non solo quello, anche l'altro. Ma tu cosa? No, si dice quello. È una cosa pubblica, io se me lo voglio comprare voglio sapere quanto costa. Guarda, si chiama IC7008, però ne devi aggiungere altre due, diventa 9008. Cazzarola. Yeah. Con la Iaris a mia moglie. Cosa serve per cucinare il porcetto? Non lo so, perché cosa serve? Serve per parlare alla radio, per fare radioamatore sicuramente. No, io ho comprato la smart a mia figlia Gianna. Nuova? No, un semi usato sul continente. Questa settimana dovrebbe arrivare. Hanno salito a prezzo? No, già sono incasinato il lavoro, ma adesso sono incasinato, non riesco neanche a muovermi a fare 10 metri. Ho lavorato ieri, erano i santi, ieri mattina, reperibili oggi tutto il giorno, sono rientrato che era due giorni e mezzo, non meno un quarto a sesso. Oggi non mi sono potuto muovere perché mi hanno già chiamato 6 volte. C'è un casino Gesù Cristo. Domani sto lavorando da lunedì alla domenica praticamente. Tutti i giorni. Mattina e sera. Speriamo che entrano i gruzzoli. Entrano? I gruzzoli, i soldi alla fine del mese. Se non entrano vado a prendermeli. Beh, almeno con la soddisfazione. Se li lavori ce li hai, là. Però la misera soddisfazione, però poter portarli per te meglio di subito. Ma io posso fare diversamente, se sono addetto a fare quelle cose lo fa, perché già siamo in un mare di guai con questo cambio di politica che c'è stato. Perciò bisogna filare dritti e cercare di far filare dritti anche la gente, perché c'è un casino lì, come dice sopra a Cagliari, non so se state seguendo gli eventi nostri, ma praticamente c'è quella giura tra Valenti, io e altre due squadre proprio d'emergenza, gli altri sono tutti in stato di agitazione. Denunce, controdenunce, ha venuto poche di cose, ho sentito al televisore, il sindaco addirittura ha denunciato per l'acqua che mancava, non so che cosa. No, per me i comuni ci vuole buona mazza, a noi dai la notte manca. Quando licenziamo il personale, intanto me ne frega a me dell'acqua o dei comuni, di San Martino. Io tutelo i miei colleghi di lavoro, hai capito? Che entro dicembre invece del panettone ci sono letti di licenziamento, ci sono padri di famiglia, ci sono persone che ci sono un sacco di anni. Quindi siccome io ci sono passato in quelle cose, quando ero all'Inichen, che in pochi mesi sono stato mandato via, ti parlo nel 1990, perciò capisco cosa vuol dire. E quindi sto cercando di far di tutto perché almeno nel mio lotto non avvenga questo, però bisogna lavorare, perciò è così. Beh, quello sempre bisogna farlo, si è pagato per quello. Ah, tanto gli scioperi, Claudio, hanno il tempo che trovano, è sempre. Gli insegnanti che non volevano questa legge Gelmini, non li vogliono nessuno. Non li voleva nessuno, questa legge qua che hanno fatto e cosa, hanno addirittura distribuito gli insegnanti alle madri e cosa, i fondi per cercare l'appoggio perché trovavano questa legge inaudita proprio, licenziare gente che c'è tanti anni, ecco. Beh, ha fatto quello che ha voluto. Lo so, ma da noi è ben diverso. Il nostro è una manovra politica che non devono fare, invece stanno cercando di farla assieme a a tutto il direttivo, perciò perlomeno dove sono io mi hanno assicurato che le squadre rimangono come sono, però io sto cercando di fare l'impossibile perché tutto non avvenga e cercare di essere solidale con i miei colleghi e cercare di dare una mano. Se poi dovesse succedere non ci posso fare niente. Mi sono pagato già per fare 6 ore e 40, mi sto facendo 12-13 al giorno, vabbè da te se non seguo i travaglienti. Vabbè, sai quando è così, vabbè già capita, te se poi di Natale ti chiedi che torno a mangiare, io non torno mai a mangiare a Natale, sempre consegnando sto. Io avrei preferito consegnare e stare con tutti i casini che c'è, c'è il segno della macchina, c'è la macchina di servizio già era... da un mese più, ma appunto van, non ti getti, non lo fai che mi siedo, manco le gomme per terra, tocca di quanto sto viaggiando a destra e a sinistra. Voglio usare bene le carte, fabbini, verifiche, controlli e vale che vale. Sempre tutto rotto, che conosci il codice. Va bene, d'accordo, dai, avanti Franco. O Luca mi dice, ce l'hai trovato, questo cacchio di radio. Un casino lì, sempre un casino, niente da imparare a pagare. Imparare a lavorare la gente, hai capito? Il mio super boss si prende 110.000 euro all'anno, gastano per mai un figlio. Quello è furbo. Allora facciamo tutti i furbi così vuol dire che invece di mangiare ci andiamo a contare mattone le piazze d'Italia. Vai Ronto. Sì, ma proprio così. Ma se no sono stato bravo per lui è finita, ma anche per lui credo sia finita, c'è il programma delle balle, perdonate la dialettica non professionale, ma io spero che vada via il più presto possibile perché sto facendo solo danno. Ho già detto due volte, se la terza non mi riceve ne era un po' la gamma. Se si frega, ma ancora i lombi sì. Mi sei impugnato male, eh. Ah, immaginati che sono a Sassari, poi mi hanno affibbiato da 10 giorni a questa parte, Ogilo, Mulvi, Tergu, Buzzi, Vallelori e Santa Maria Covinas. Grazie, non basso un azzurro. Sono azzurro, non basso un azzurro. Stamattina sono uscito alle 7 e sono tornato alle 3. Ieri giorno del Santi sono uscito con le 6 e mezza del mattino ancora 2 e sono durato le 5 di giro. Ma comunque mi sono accorto di una cosa. Bollette stanno arrivando un po' troppo in ritardo. Dicevo le bollette sorrende in ritardo. Sorrende buoni stipendi in ritardo sempre. Quella, che è quella cosa importante? Che gente, siamo perderò, se no ci mattonano lo gabbo, mi mattonano i giù da buco. Ho capito che sta meglio con i privati, se sono buoni, che con gli enti pubblici. Ora più fine siamo tutti uguali, non c'è problema. Dunque io mi bilio a 2.000 euro al mese e se ho rimaniato mica dove ora gli enti e ho cambiato il numero di telefono, ho fatto il conto. Cambiato il numero di telefono. Mi avevo le scatole piene delle utenze, a tutte le ore mi chiamavano, ma come mai? Ma non mi sta arrivando questo, ma è passato quello e mi ha piombato il contatore, ma cosa mi ha fatto a me? Per carità, guarda, per carità, tutti rimanere a intendere. Ma dove arrivo io a casa tua? Ma in quanto ti arrivo di che cosa? No, io quanto ti arrivo io a te di segnale. Probabilmente sì. Allora va bene. Ma sai che radio è questa? Quella piccolina. Cioè quella che dicevi che era sempre bassa. Non sta andando bene adesso. Sì, magari qualche difetto oggi di passaggio. Niente in particolare. Già va bene. No, il difetto io l'ho risolto io. Allora cos'hai? Ho messo l'alimentatore con il grazie di Dio e adesso va. Hai già la ragione tuo padre, ce l'ha un po' per la sostituire. Va bene, vai, parlate con lui, io dormi, mi mettivo cedere da qua e poi via e poi ciccia e poi ciccia. Tutto a posto, tranquillissimo. Sì, sì. Ascolta, una cosa ti volevo dire, la quella monitor c'è sempre attiva o l'è cambiata? No, no, è attiva, attiva. Però 550, non 500. Ah, ecco perché. È che volevo fare una prova. Parla, è attiva. Chiama. Ecco qua. Forse abbiamo lasciato indietro al coso, come si chiama? Vabbè, Alessandro. Alessandro, ci sei? Anche tu, Gianni. Gianni. Claudio. Beh, non mi finisco i nomi. Tutti morti. Franco. Sinistra. No, quella sinistra. questo pugno da un fiore all'altro lo trasmette e li fa e li impugna. Come fanno le farfalle tra l'altro? Dai, Gesù! È piccolo piccolo, mi sembra una farfalla. Al becco lungo. Cosa tu? Te lo fa duro al buio. Anche il vicio. E tu lo conosci? No, voglio c'è una parolaccia. Ehi, a chi lo so. È quello che vola. Sento di Maro che... Te le mangi, Antonio? Una scalzone. Adesso mi penna, no? Ma è uscito sempre a pigliare le sigarette. Figa, sono uscito anche a recuperare le chiavi della moto, per domani. E dove c'era la moto? No. Allora, stai una tragunda giugna. Alla gumbata le vaste domani. Che sta un'antenna. Un'antenna. Dove è una grande. Ma sai cosa devi fare? Devi mantenere bella la fumaiola. Ma cosa conservate? stato di lavoro, e mocca ti ragazzi che careggia le labbra. Sta sentendo un fuoco. Sono rientrato, scusate per l'assenza, devo fare un delle prof. Sono male, ma giù i dolci, proprio, fai di male sui ghisaritti. E che ci crescono le rane, mi tu. Sulla chat, scheda madre bruciata, magnata. Ah no, oggi stamattina ho ricevuto una telefonata di uno disperato, portando lunedì, e se no, magari sì, un file scaricato da Emule. Scaricato da Emule? No, aperto, dice spento il computer, accendo non parte più. Grosso, grosso. E vabbè. il problema. Quella c'è gente molto esperta su queste cose, ce n'è sta ora e ora attaccato al computer cercando modifiche, quello e quell'altro. Beh, alla fine solo gioca va bene, sa cosa sta facendo, cosa non sta facendo. E non so, a me mi avvisa, c'è qualcuno che c'è un intruso che vuole entrare, eccetera, eccetera. Spegni e riavvia. Non so, ma se tu spegni e riavvia, tu lui ci ritenta. Che farci? Ma io sto dicendo solo una cosa, se sono sicuro, ma se è vero quello che mi hanno detto, io vado subito dalla finanza e ho anche conoscenze, perché c'è il marito, c'è il cugino di mia moglie, di primo grado, che fa il maresciallo lì, quindi problemi non ne ho. Fare denuncia subito, subito, se ti fanno queste cose qua, sei costretto, perché qua è, tu ci prendi le conseguenze, purtroppo, così. Io sono tranquillo, non c'ho la mia linea e via. Sono più che tranquillo. Facendo quando voglio, mi conto quando voglio, vado una giugana e chiudo tutto. Infatti adesso non aspetto. Adesso se ne parlerà domani. Ma la verità mi ha dato, mi sale il flash, beh, adesso entro sulle vie e controllo le cosa c'è. Poi vado un po' di tutto, mappe. Oppure mi guardo ogni tanto colorato, no, la matrice, chissima, qualche foto così, sono un po' di tutto, video, amatoriali, gli elicotteri, di tutto, ma poi... Vabbè, pure io faccio così, certo non vado a disturbare a nessuno. Ascolta, c'è una ragione del sito dei carabinieri, ma l'hai messo in moto l'elicottero? Sì, tutto fatto, c'era la sirena, attaccata alla radio, della macchina, sono stato con l'elicottero. Certo. No, in moto però non l'ho mai messo, la verità, la radio è accesa. E poi, lui si va a fare l'elicottero, ma non sa, non lo mettere nel moto, fombo di casino qua. Ha fatto vedere Daniele, cioè non lo sta spiegando Daniele, però Daniele non l'ho capito, non l'ha spiegato Pierpaolo. Sono riuscito, ma una cazzata, facilissimo, metti www.carabinieri.it, poi vai sotto la pagina, ci si trova, ci si trova 112, e lì ti apre quello che devi fare. Sì, ma non è adesso, no? Io da un po' che l'ho scoperto così, il tempo, ho messo anche la sirena, ho sentito le comunicazioni radio. Oppure sono andato già su un sito, ho scritto per guidare un affannapolle, articolato, virtuale, però non sono riuscito a trovarlo. C'è cose così, oppure guidare l'elicottero virtuale, così roba aereo. E io ci avevo un gioco del Commodore 64, così, bello. E guidavi l'aereo, ma era un bel bello. Poi infine avevo di una Ferrari che accendeva la radio, accelerava e faceva, era un bel bello. Dopo ho venduto tutto, quando ho aperto l'altro computer me l'avevo venduto a Portobello. Sono cose belle da avere e fare. E vabbè. Avanti un altro, dai, riprendi Antonio, fai girare, dai. Caricare un gioco ci mette a 61. Servo per Alonso. Vedi, io l'asino non lo posso usare. Che cosa? L'asino. L'asino? Sì. No, ho detto che l'asino non lo so usare. No. No. Nemmeno io ci sono mai andato. Cos'è l'asino? No. Allora. Sa. Gianni, io l'asino non lo so usare. L'asino? L'asino cosa? L'asino animale? La pigliata, lei è tembole lì. Ah, l'asinello. L'asinello. La si è compreso come a te. Su emule, ma è entrato ci sei. Ah, non lo so usare, non mi interessa. Come non lo so usare? stessa, ma se entrai lo vedo quanti si usano. Ma entrare non l'avevo perduta. Sono i filmati così. Ah boh, non so come funziona fra. Esatto, mi cerca di ovviamente con più fonti possibili, un po' più con più megabyte trasferimento, fai con me. Poi vai in cerca, ti cerchi quello che vuoi e dopo ti do la lista. Su quello che ti interessa lo metti in download. Guarda, la sera non pure Luca, la sera era una buca subito, non lo posso usare. Assolutamente. Mi sono trovato solo una foto, ma so come quella di cattinicità fra. Ma tanti facciano nudo. Ho trovato questa foto e basta. No, ma mi ha fatto andare Luca per. Per vero lo devo scaricato, ma non ho scaricato niente. E cos'è? Ma non vedo me, sto aspettando che ho cancellata. Cancellata, e non ho scaricato nulla. Beh, non l'hai scaricata, con quello l'hai scaricata grande, non te ne sei accorto. Ma c'è la tua emule. Quale strano? Ma tu ripeti. Guardate. Questo è fatto lavoretto. È un po' casino. Il computer è molto molto difficile, non è facile. Perché lo so usare va bene, perché non è facile. Non è un telefonino. Allora, io mi sono scaricato questo programma. Ora sto facendo così a passatempo, dai. Allora, già ci sono gente maleducata. Si chiama MC2. Cazzo, ma i primi giorni ogni casino, non sapevo come fare, scumba, trovo un gioco, ci mi connetto, faccio tutto quello che devo fare, i canali, vado, tutto, ma prima, però, perché ultimamente non riuscivo a connettermi, ma sono nato da Ilk Help, ascolta, passa così così, quelli sono quelli che ti aiutano, no? Avevo scritto Mercurio, Mercurio, puntini puntini, ma ti ho detto no, non è più quello, ma, e io ho detto come non è più quello, se mi connetto, dice io devo connesso con quello, mi ha fatto cambiare, mi ha fatto mettere il punto MC2 così via, mi ha fatto così, è stato, ho cambiato le mie parole e mi non sono riuscito di nuovo a connettermi, ecco, io sono già vivo io. Se non riesco a scaricarmi Mirk, un programma lo stesso, uno script, un free ratio, dice in italiano, vado a scaricarlo, cazzo tutto in inglese, ma va a qualcuno. Lo dice in italiano, non mi ricordo se ce l'ho, ho conservato qualche parte, lo devo cercare. È un programma fra per fare, prendere chat. Lo so, uso troppo, non c'è spazio mai entrato. Ma tu usi, non puoi usare per tante cose quello, però so, ma per dire, ci ho provato un po' di volte, prima tutto sembrava in italiano, oppure una volta che apro la pagina, cazzo, tutto in inglese, poi cancella tutto, c'è l'atto, ci riesco, ho chiesto più volte a un po' di gente che ce l'ha lì nella chat, fai così, cioè come si chiama? Kazuki, no, quindi la G3.3, quella volta se non riesco a trovare, cioè, provo, cioè, quando io riesco a trovarlo, riesco a trovare download per scaricarlo. Se sapete usare il mio, te lo scarico di là, via. Non so fare, ma pazienza. Grazie. Mi ha parlato e parlato, mi avete ascoltato, dai, io me ne vado in quelli che si ascolto, dai, poi vi saluto. Ah, ma poi la Bianco di Stamma che ti sta venendo. La Bianco di sta venendo, già, è stanco. Lui piano piano già impari anche tu, come hanno fatto tutti. Questo mi ha distrutto la custodia del CD, la bagaglia di tua sorella. Però guarda come è tottesta di cima, di cutna giù saluti. Chi? Visto una campagna del vicino, a Giumano Romagno. Cosa ha fatto perché? Tanto, siccome non abbiamo il muro confinante, e lui lo sa qual è il confine, no? Siccome ci sono altri cani dall'altra parte, e ogni volta si affaccia, quello che c'è è un pastore tedesco, siccome non si possono dividere tutti e due, paura che se lo prende per il collo, se lo ammazza, sono grosso, non c'è verso, ogni volta che lo vede piglia a parte in quarta, oggi come l'ho visto partendo, però che l'hanno fatto fricollare, ha giocato in casuccia. Mi sono tirriosi, ma la giurri, chi la mia? Ui, non dimmi una valla. Ah, c'era un pitbull vicino a casa mia, beh, lei era frontendi. Infatti quel pitbull era così, insomma, l'ha visto, era piccola, grosso, la voleva mosicchiare, secondo me. Questa era per due settimane fa che è successo dietro a casa mia. Ti cazzo, piccolo di mosa a capo e ti rimaneva un gabbo. Da ruta chi fa? A rompere le balle. La cosa allucinante, va. Occhio, il pitbull è diffidente. Rimane tranquillo, poi di colpo parte e non le togli la bocca, Ma come fa a mangiare la bocca? Ti mangia pure a te, ma sta scherzando, no, non so. Ma ho fatto un vicino neanche io. Ho trovato un guinzaglio, ho fatto quel guinzaglio con l'allungabile. Io ce l'ho, c'è quello allungabile, quello fisso. Cioè quel collare che si mette sotto la pancia. L'aspetto lì non si chiama, l'aspetto lì è. Io non so come si chiama, ma i primi giorni va un casino per metterla. Se devo comprare il golfino. Cosa c'è sì? Il golfino. Ah, il golfino. Ma quello non ce la interessa. Non lo so, no, non ne ho mai preso, intanto con tutto quello che c'è questo. Vabbè che è sempre in casa, è come il tuo, ma non penso che ci abbia freddo. E vabbè, comunque le cose è una cucetta che ho messo a un play piccolino, di quelli da bambini, no? E qui c'è questo golfo che copre, tranquillamente. E adesso inizia a fare freddo, perché qua le finestre devono andare aperte. C'è un sindappa, qua io li ho preso lui, quei cuscini trapuntanti. Vengono a casa degli animali, quello qua è di lusso, di coperta non ne metto mai io, ma dentro lì si accuccia, Luca, ma adesso si viene a succedere con questi animali nuovi che hanno appena? Non li ho presi la coperta. E dove rimane che voglio andare? Quello lo conosco io, è quello che ci ha portato Sant'Antonio. A Campilli? Lara. D'accordo, a Giulio. Ah, lì. Cavagava. Sono nascosto però come posto. Che c'è che vende? Che sta facendo vedere un po' di cose? Un taglio, bomba. Me lo pare un po' che tu caruccio come prezzi, Mi ha fatto pagare 5 kg di crocchette, quelle piccoline, a 4 euro. Lui lavorava a posto questo, prima postava i mobili. E ti la faccio già vista. E poi niente, ha fatto vedere queste ossa, per l'abito, il cane, i dati, bombami, buoni. Fate te vado già ripasso, però io sono un po' caro come le gusti. Ci vado lì a Zomarca, quindi a Pascoli. Ma sai che è quello? Il fatto di Patrizia, quella che ci ha portato bene, quella ragazza che ci ha portato bene. Non lo accosto. E vabbè, come io sì. Ha cominciato da niente e ho visto che sta andando. Sì, infatti mi ha detto signor Giulio che già prende, non molto ma già prende. Prima diceva tipo spaccapezzi. E tu c'ha animali particolari, quindi per l'acquario c'ha le murene e tutte queste cose che gli altri non c'hanno. Questa faccio un salto io. Serpenti ne ha? No, guarda, non ci ho fatto caso, non male di no. Mi sono entrato così con la scusa di prendere un po' queste crocchette per il cane. C'è già la ciotola, non lo rimagna. Lui dà tu a mangiarli, solo non ne mangia. Cos'è che ti servono le ciotola? Oh, c'è la ciotola. Ma è una gatta Claudio, per cane suo. Non ha già detto le crocchette, gliel'ho messo la ciotola. E praticamente deve rimanere senza mangiare nulla, brutta. Non deve avere nulla, però se la se ne mangia. Un consiglio pure a questa la mangia che si rimane di voi, interessante che non ci sia roba grassa. No, io tanto faccio i pezzi di pollo, cucino con l'acqua, no? ci mettere lui, io metto l'acqua, mi accucino bene, poi tagliare a pezzi piccoli piccoli piccoli e gli metto a mezzo alla pasta. C'è pulito che sarà ovviamente. Se l'ho fatto un giorno, ci avevo preso un pescato un calamaro, no? L'ho cucinato, l'ho fatto al sugo. E ne ho preso due pezzi, li ho fatti a pezzi piccoli piccoli piccoli piccoli, e li avevo mischiati a mezzo alla pasta. Beh, se mai hai tutto la tua calamaro, la mia la tua casa. Antonio, sì sì. Antonio Popolo, Bombolino Bombolino, cosa fa nel mio giardino? Ciao, vogliato. Ciao, come si fa per il microfono? Non mi dire. Ha la voce sconvolta. Mi sono ingarbugliato. Antonio, secondo me ti ha cantato il cuculo. No, no, no, tranquillo. Imbriaco. Ma ti sembra che ti sia pranzato, Antonio? Tu farà bravo. Scappa. Ah, no, mi sei ingarbugliato tutto il filo. Sembra che pugliamo a fare. Antonio, sembra che c'è, come stai parlando, sembra che ti hai bevuto un bicchiere di mirto. C'è la voce, sta quanto è passata da sonno. Sei lì in dentro. Deve essere passata la voce di già. Mi avevo un microfono, fuori da qua, ho detto. Oggi non qua il microfono, ho detto, vabbè, non so se lo fa. Sì, aspetta, non sono una settimana senza televisione, mamma mia, sono abituato, e vabbè. Però aspetta, alle 10. Ah, mio zio, un bellino, un digitale terrestre, da Italia anche. Non mi viene il nome adesso. E vabbè, comunque, me lo chiamo da poco presto a me. 20 euro, pure si può occupare a parte. Io ho detto, tira da parte, invece se serve prendere uno da 100 euro. Telesystem, bambino a corso, al DVD. E tu di vuoti? Mi dice lo stesso. No, ma lui, ci vuole lui, no, ma se non so per il giorno, dacci, con la cella. Non è prendere, c'è lì, ci sento, buon sito. Sì, fai, dopo, se ne stanno 20 euro su un pagello, ma stasera faccio il grammo di due, ma quella è la televisione. Scusa, ne aggiungi 15 e te lo compri nuovo. E la dacci qualcosa? Rappa, cioè io lo trovo a quel prezzo. Aspetta, ma te esiste per come la scheda? No, dove la scheda? Tenuta te la scheda. Ma è tutto malissimo. No, questo è un telesistema, non è di quelli... di... ma... io ne ho uno. Me l'ha arrivato Claudio. Telesistema nero, di quelli piccoli. Però c'è la mamma, la mamma. Io l'ho anche modificato, gli ho messo... 01, se ne spegni. Anche ogni volta per staccare la spina, andare dietro il mobile, siccome ci andava un bel, allora solo 01. Ma non lo uso, gli ho detto, qua, prendi e via. Se lo tieni lì adesso, prendo questo qua. E poi che va bene tu, mafra. E bisogna andare così facile, ha preso qua con la mondezza. No, non è che non vanno bene, perché sono i primi che siamo usciti, e quindi hanno dei problemi. Cinciodani, molte volte non si accendono, due ne ho qua io di quelli, guarda, un casino ogni volta, ti giro accantonati, fermi, io sono andato per pizzi il ricambio. Vabbè, allora, fatto nuovo, era poco, l'ho usato pochissimo, anzi nulla, e mi adesso lo sto usando, prima, non ci guardava parabola, i programmi. Adesso questo qua mi sono voluto cambiare, si vuole prendere quello più, non so che marca c'è, insomma della Philips, quello che giochiate con i riscotti, con il telefonino, mandi messaggi, vinci, brutto, del genere. Per giocare anche se lo sta comprando, quello da me. Vabbè, non si impalla, tu qua ho qualcosa, mi lascio. Va bene, ma io mi confitto di installarli tutti, l'altro giorno ne ho messo, ieri ne ho messo una, prima ne ho messo un altro, e sono tutti aggiornati. Però che non lo faccio fuori, non c'è problema. non intendo già conoscere i digitali, ma sono tutti uguali, ma sono me, sono più frecci, è pieno, non intendo già così a conoscere i memorizzare i canali, tu prendi quello di mio zio, no? Infatti va da 1500 e rotti, infatti va da 1, 2, 3, cioè 0001, 0002, 0003 e via. Guarda, 1000 e rotti su Bordano, cosa ho fatto? Gli ho fatto la scansione prima, l'avevo resettato, no? Poi sono ripartito da capo e mi sono usciti i numeri da 00001 Rai 1 GP. Stavo provando da due giorni, ma te non ho educato bene, mi sono messo io su di i minuti l'ho sistemato io. E infatti quando capita così l'unica cosa è resettato, la prima cosa, poi vi fate la riprogrammazione. Ma infatti è quello. Pensate che c'è in lingua italiana, poi il resto già è ovviano, basta leggere, se non sbagli. E così, vedi, il mio per spostare i canali diverso, quindi premo il tasto, cioè blu, diventa bianco e sali, e lo mulli con il menu, poi fai exit, poi una volta che fai lì dice premo l'ok, premo e lo memorizzi, e poi te lo appunto attacca così si fa, e così memorizzi i canali. Ma comunque sono arrivato una cagata, sa bene cosa fa, non sa bene cosa fa. Perché dovevano incassare un po' di miliardi, perché a parte quindi hanno inventato anche quello. Ma poi io dico, cazzo, vabbè, quanto durerà un digitale terrestre? Oh, dipende, qua io ne ho uno della Nokia che ha... forse un 3 anni e mezzo e sta sempre funzionando. La cosa che l'ho dovuto tornare come firmware perché la carta Mediaset del 2007 non riuscivo a leggerla, quindi ho dovuto aggiornarla per leggere la nuova del 2008 e adesso è perfetta. Sono tanti comunque, bomba. Ti dico questo, c'è un dirigente disperata, ui, fatto con la signora, una donna anziana, tomba, ricerca dei tecnici, assistenza digitale, ho chiamato problemi di antenna, mi ha detto domani dobbiamo andare a testare un'antenna con Antonio, una domani, una dopodomani. Mi lo compare. E via, è stata la mattina, no? Prima erano tre, mi ha detto sì, perché mi ha detto... la signora mi ha chiamata disperata, non c'era programma, non c'era, non faceva nulla, ci ha fatto un favore grandissimo, fra a Londres e mezzo fissato un mezzo in Kiwi e poi a lavorare, ma che faccia lì? Ma lì ci lavora mia cugina, no? Poi ho saputo che chi lavorava, io mi ho ricevuto un zembo, ho detto 1050 euro e una testa al toro, perché sono andato lì, ci sono tutti i canali. Poi siccome l'antenna tipo gli ha fatta cadere dentro la cerrotta, ne avevo un'altra con questa antenna qua, non riuscivo a trovare i canali giusti, alla fine gliel'ho comprata, cioè ho fatto un bel tempo, vabbè, e stava tutto Rai 1, Rai 2, tutti i canali che voleva lì, e poi è andata a dire che io gli ho fatto un casino, ho attaccato tutti i fili, tutti i casini, secondo me è macca capo, mi sanno a me assolutamente. Questo me l'ha detto, chi l'ha detto? La cosa che me l'ha detto non poi ci siamo paurati, no? Infatti poi ho chiesto lì in zona, gente che la conosce, mamma mia, ma no, però lì da lì, e ci mangiamo a due pipa mia, per carità, che personaggio. Vabbè, quando tu vedi queste persone così, sì, no, però, lavoro è lavoro, lui ci soffre per lavoro, per favore è un altro tipo di maniche. Se mi chiamano lo faccio, non c'è problema, perché mi devo tirare indietro? Questo è considerato che lavoro è quello che è, cioè non vi ne è proprio, non sto approfittando, prendo quello che mi capita. Mi sono messo, ci sono riuscito, non ne ho fatto un casino, addirittura 43 radio è caduta il trasso di quelle antenne interne, là, ci mettono separati su, la disintegrata, io l'ho tutta aperta, io l'ho sistemata bene, non chiedeva più, c'era l'altra corrotto, insomma, poi gli ho messo l'antenna, quella che si alza, là, diciamo, doveva dal mio impianto, che l'avevo fatta una, ne avevo messo una per ricevere il segnale, no? Mi ricaccate neanche i papponi della retta. E non si degnate, dimmi, quanti devo dare? Io ho messo una, siccome c'è la manopola per fare la regolazione dell'antenna, no? E ho messo una manopola del baracchino. Giusta c'è stata, ed era l'unica, ed è che di manopola non ero, poi abbiamo messo una di quella. Non si degnate, dimmi, quanto ti devo dare? A parte le 20 rovinato, mi ho messo a posto digitale. Per il lavoro dell'antenna quella che abbiamo messo a posto. Ma di tu va, hai capito? E poi mi viene a dire, a me io ti ho fatto casino, ma vai, e fatti suona, vai. E avrei detto, vai, fatti un brutino di mamma. Con la gente lì, però, gli ho fatto la grossi. Allora, tu, ciao, vai, uscirà in pelle. A che ora non gli posso più, si arrangia. Adesso, ad Antonio. Non vuole un buono, Antonio. Secondo me è già bello che è andato. Oh, dimmi, no. Ah, non voglio un bollo, no? Dimmi. Ma ti prendi? Sto facendo una cosa. Gianni. No, è un piccio, Antonio. Troppo ridere. La scena, ragazzi. Mi ricordavo a Gianni ai tempi che furono. Ti ricordi già? Ma io frana, sai cos'era? Erano degli scompensi che c'aveva, che mi facevano dormire così, degli scompensi dei valori. Vabbè, ma io sto parlando per ridere, ce lo sappiamo il problema tuo, ma era giusto per ridere un po'. Vabbè, non mi capita che quando sono stanco, e adesso grazie a Dio, tutto a posto. Ma quando sono stanco già mi capita, mi frutti, mi trombo di gol. Già. Eia. Quanto fa? Quattro, mi hanno detto mi chiamavano, ma non mi ha chiamato. Chiamalo tu. Quasi, quasi, quasi, quasi. Lasciai faccio tu. Quante ore? Se devi saperlo più o meno quanto ci mette, non è che lo chiami con la stabilità. Non sei cazzo dentro tu zitta alla ciamma è meglio è vero, è un caro e ti ho chiamato. Ecco perché il baracchino non l'ho mai potuto vedere in camera letto. Ti vediamo, le conosci, diciamo, sdraiato. C'è una volta capita a me che mi ha detto un po' in stand-by, tipo, guarda, quanti ieri mi pare, c'è la gente di Antonio, e lui già venne, ho passato un po' il volume, ciao, mi ha disturbato la buri, mi sono dovuto recitato, le 1:30, le 2 di notte, no? Ma ti prende male, non ti sdrai, ma c'è fai il radio, seduto, ma non è duca, l'abbia di chiudi, ti corichi. Infatti io ce l'ho così, per evitare, vabbè che in camera da letto non, questa solo l'ho messo, ma tanti anni fa, non ho più messo. Ma è lucido di cui a capo. No, a parte quello, che quella è la cosa più magica. Quindi uno va a quel catecidome e basta, voglio essere dico va a chi. No, mi sa fare quando bisogna andare a dormire, a quel caso bisogna fare l'amore. Infatti, fai l'amore prima di chino al baracchino, l'amore è l'amore. L'amore è l'amore, con due R. Morre. Hai questa cosa bella. Ma tanto svegliato ti sei, che cos'è? E c'è una roba bella, ma che va bene. No, frate, non si può che vado in figlia, perché lui è. Yeah. indubbiamente. Ehi, Adia, ci sono già. Ascolta, l'ho chiamato e non rispondo. E vabbè, a buccia. Murugnello, cari, allora. E stai murugnando, va fuori il cazzo, va. Oh, su cari, la stanno di bacino, la stanno di e voi siete murugnelli. Questo mese è già grandetto, va? È già grandetto, però ancora. ancora certe cose non le capisce. Allora bisogna fare del capire in un'ottica diversa, bisogna farglielo capire. Allora, come ci avete detto lo spazio? Tenete anche fuori? No, fuori c'è soltanto quando deve fare il bisogno, ormai c'è i suoi orari, e a quell'ora deve andare a fare il bisogno. Mi avvisa, perché viene, si mette, mi gratta la coscia, là io capisco che deve riuscire a fare il bisogno, se no rimane tranquillo. Il mio a me mi aveva messo, mi aveva tagliato tutto l'impianto, spero della macchina, che era un impianto da allora 1,5 milioni, non ti dico altro. Ha moscicato tutti i sedili perché ho lasciato dolore in macchina così il cofinettino ha aperto e tutto. E se mi ha aperto, dai, di modo che non esca, però un bel pezzo ha aperto. L'ho lasciato perché dovevo andare a fare una commissione, ho trovato gente nel negozio. Sono ritrovato dove il sedile è strappato, capire male in testa mi sono messo. Tutti i capi dello stereo, tutti moscicati, tagliati. Io no, faccio sul computer, può prendere dei dati, senza che sul computer mi manca un disco. No, non è possibile, se non tu un disco. E cosa faccio? Ho detto, non ci posso credere. Boh, controllando, ho detto, boh, ma sai, poi tutto a posto, a un certo punto guardo bene e manca il fetto, non so se è presente i nuovi dischi serialata che hanno il fetto di comunicazione e dati più fine. Cioè non ce l'ha più, dov'era? Dentro la cuccia sua. Tutto musicato. Sì, a Giumè mi romagno, guarda, ho preso uno spavento, ho detto, non mi avevo fatto neanche una coppia. Infatti adesso mi sto facendo le coppie anche di quel disco. Casino. Era molto dispettoso, era abituato che lo portevo, mi girava per tutto, poi quando è andata la nuvela, mia moglie fa la carrozzella e coso, e quindi non lo portava. E quando tornavamo anche dovevamo trepisciare in terra. Lui sapeva già che aveva coperto qua, prendeva un dentro la cuccia e metteva qua la cola in mezzo alle gambe. La ventera, musicava le tappe delle sedie, alla fine poi non ce l'ha fatta più un giorno perché è entrato nella culla di Manuela e la stava leccando nel viso, l'abbiamo trovato sotto le coperte con Manuela, leccando nel viso, allora da lì l'abbiamo dovuto dare. Così, vabbè, sicuramente non gli avrebbe fatto niente, però il cane quando è geloso è un... Cioè, io non so come si comporti veramente, però io so che bisogna stare molto attenti. No, era gelosa, addirittura la proteggeva, se andava sotto le coperte con lì. È affettuoso allora, vabbè, però se una non si fida, sono dello stesso parere. Vabbè, io l'ho dato a mio cognato, però abbiamo fatto un mese che ci andavamo, era stato a Prestintino. Le notti li va a portarli da mangiare, sempre con i ragni e luce tutti e due perché non sono ben affezionati, capito? Già lo so, le affezioni sì, però purtroppo ci sono delle cose che cioè devi decidere una o l'altra, gli assieme penso che sia una cosa impossibile, ma non che non ce l'hai da piccolino, proprio anche il bambino da piccolino. Dopo Manuela è nata dopo, prima abbiamo avuto a lui, e quindi noi ci portavamo a lui in giro e tutto quanto. Quando lui è rimasta incinta, al 9° mese, siamo andati a cena a casa di amici, e ci avevamo anche il cane, loro avevano il cane lo stesso, e mi diceva, porta anche a Chicca, e io non da fastidio, no, portalo, fregati. Io non mi sarei mai permesso, avevo portato il cane, e abbiamo mangiato, poi Liliana stava a parlare, la seduta nella sedia, Chicca prende e le sale sopra e comincia a sfregare la testa sulla pancia, faceva detto, ma cosa c'ha questo cane? Dice, tu bene stare? Tu sì, non c'ho niente, torniamo a casa, già mi sento male, portami all'ospedale, va partorito. Loro sentono queste cose. Quello qua sono fenomenali. Sì, se ne è accorto, faceva un mugito proprio e sfregava la testa sulla pancia. Cos'è un bel frano. E sono ben dirigenti e certe cose le sentono. Gli animali si avvisa. Mi ha esercitato. Sto esercitando, mi sta ascoltando. Pensavo che fossi già addormentato. No. Adesso quell'animale se ne è accorto, perché l'animale non è scemo, si è accorto prima di noi. Ma mia moglie non c'aveva niente, se no avrebbe sentito qualche dolore, qualche cosa. come siamo arrivati a casa, si sentite male, mi avete portato all'ospedale, cosa ho dovuto lasciare il cane solo a casa, l'ho portato all'ospedale, alle tre ha fatto lì. Ma loro lo proibiscono prima di noi, hai capito? Quando ci sento brutte cose, il cane lo proibiscono lo proibisce prima di noi. Ma per quello che non ci ha avvisato il cane, quello che è da costruire, ha fatto così al giusto. Tutto di questo. Tu parti di lavoro, ti ha messo in quando l'ha portata a casa, abbiamo portato a casa Manuela, il primo giorno. Ogni assalto che facciamo per guardarla, ogni assalto. Intelligente, se ne è accorto che l'ho visitato un film, il cane è molto intelligente, rimane molto contento. Io vado a studiare, però così pieno, la fatica, la fatica della Giulia, vabbè. Ciao, basta, ti faccio Franco, Gianni e Antua. Sapendi già, dai, stai ascoltando. Ciao Fabriciano, tanto saluto. Ma cazzo, Sara, questo va che stiamo facendo così dal computer, se non stai divertendo, ti stai ascoltando. E intanto io fa un po' più, io mi guardo allo sport, poi mi andrà a nanna, che mi devo andare presso lui. Io, ciao Fabri. Mira eso, tempo di 15, ancora 10 minuti e mezza, e saremo tutti buono noi. Io chiudo adesso, non ce la faccio, sono stanco, lasciami chiudo tutto anche gli altri, così ci vediamo domani. Salutoni a tutti, ciao Fabio, sono entrato adesso, Gianni, Antonio e tutti gli ascoltoni, oggi vinto agli ascoltoni. Ci sentiamo alle prossime, buonanotte a tutti e buona giornata per domani. Bye bye. Ciao, ciao Fabro. Ciao Fabro. Ciao Franco, buonanotte. Ciao Luca, perché qui è sempre soltanto. E se non ci fosse. Ok, avanti Gianni. E avanti, io ti vedo anch'io, dai. Vi saluto tutti che domani mi devo andare presto, vado a fare una visita, quindi mi devo andare molto presto. Ci sentiamo, dai, ciao Luca, ciao Antonio, ciao tutti gli altri amici, certo fammi sapere perché l'ho chiamato e non mi risponde, quindi se lo vuoi chiamare tu adesso. Vabbè, ciao Gianni, che bella, buonanotte. Allora, sto guardando, adesso chiudo anche io. Vabbè, è tardi, non è niente, ci sentiamo, dai, mi ascolta per essere, poi ci prendo tutto. Ciao Gianni, ciao Massimo, va, la brizza la chiudo pure io. A domani. Però aspetta, chiami già tu, Antonio. Viso io, là. Anto. E via. E la tutti chiusi, si chiuso, hanno. E là c'è la buona capita. E quindi hanno chiuso. E tu ce l'hai buttata. E tu buttata ce l'hai. Sempre con una battuta di... Allora, l'ho buttata da tanti anni, da tanto tempo, capito? E te la fai. Ah, così, No, non bisogna buttarla, no? Perché, a tu vai a così, di segnale e di nuova fiata. Buono, numero 25, se va di più. Di più, 9,25, di più di altri giorni. Tu che dici che la notizia, c'è un tempo bello. La popolazione, capito? Ecco, ma deve essere... comunque Gianni qua, sono un po' più forte di te. Ma lo so, Gianni c'è lineare. Che cosa lineare? È in alto, a me mi chiede in pieno, così. Lascia stare, c'è lineare, capisce? Sempre attaccato. La cosa sempre francesi qua, perché c'è sempre voce a 2000 watt. Sì, 2000 watt, lei è un incidiabile. sì, infatti è stato importante lo così antenna. Allora, certo, tu ci vai a mettere la bolletta clara. Allora, nel tuo modo cosa cazzo devi usare di tanta potenza? Ti serve la pena, se dai che fai i battifici. Andò dopo, dopo vai, prenda lo tutto in ombre. Dai canto da un gamo. Tu tu, vale mentalone. Quello che avrei attaccato. Ia, sì, tu ci ha fatto una giornata, tu, ma bellissima, c'è un caldo la paura, c'è il mare. Schiaffa, io già mi ha fatto caldo, Grazie, tardi, stava bene, non è caldissimo, ma comunque ci stava molto bene. Cazzo, non era caldissimo, ma c'era caldo veramente, c'era lo stesso che ce l'avevo caldo. Va bene. Vabbè, va, dove anche tu hai il Roman Imperio. No, non mi sta per pensare, sicuramente. No, mi sta per parire, quindi, ma... Io si la fame. Sapevo la fame, ero il sano. Sapevo anche se c'è più sano. Sapevo male, si infila. Tu lasci la prova, tu mi infili. Se la fare. Domani è lunedì. È la sabato. Certo. Adesso è dura, Che? È la sabato. È la sabato, per carità. Certo, grazie. E quindi settimana che passa sempre più grande, vediamo. Ma io penso che si è fatto di lasci ricchi. Ah, però poi come 24. Ah, è una mala. No, la c'è 24. No, cosa c'è 24? 24 anni, tra poco. Ah, si giovane, si giovane. 24 anni si giovane, c'è il fiore della vita. Ah, ma adesso mi avrei qualcuno più di me. Allora, devo fare 22. Sì, sì, domani. Allora, 12 tritte. Sì. C'è una vecchietta cazzo che spendono 100 candeline, tranquille, sane, faccia a cazzo però di buona salute, cammina. Sì, sì, sì, è vero, 90 anni camminano, fanno, cioè sono molto, sono tutti anziani che sono molto esigenti al dottore. È da Tirolo, c'è cioè, una centrale. Grazie, io ho guarda, bubu. Ecco, c'è di farli di muro e che sai. Ma se non arrivano campani, tranquillo, camminando, buio del sonno. Ah, va, si spera. Vediamo un po', quindi. È tutta la vita così, c'è gente che si spegne la sua vita nella fisseria, per un sorpasso, per una cogliata, si ammazza. Allora, io non sono pagato, fa molto meno. Magari l'organizzo mangiano giusta, esce di casa, magari di cicchietta, un lugar per lui. Metto strada, anche così mi succede. Lascia, purtroppo. È una cattività, purtroppo si sa quando si nasce, ma non si sa di bocca. Allora, prendiamo il messaggio a me quando mi viene a gioco. Portami di là, stava di casa, si sente anche a te. Se si può dire. Ah, è un'ora a mare. Ma da quei 18 anni ce l'ho bene, dove c'è una fesseria, oppure quella 16 anni non ho vestito verso il monte e muore, che però no. Allora, ma io non ci per carità, c'è chi c'è una, e così mi dispiace veramente, perché una morte così giovane non può accadere. C'è anche solo quello che è di malattia, non è proprio più tragica. Tutti i tragici, tutti e due, guarda, perché secondo me sono delle moto ingiuste. Vabbè, questo non sappiamo se sono giuste o ingiuste. Ci colleghiamo alla religione, facciamo questi discorsi di morte giusta o ingiusta. Non si sa, giudicando noi sono ingiuste, dice che trovare mai, c'è gente che ammazza, fa una vita che si faceva male agli altri e fa una vita a 30 anni. Allora, ci sono le persone, quelle persone che dovrebbero stare dentro sono pure, e quello lì è più tragico, ma poi magari che ha fatto pure una persona. Infatti, lei ha fatto sempre del male, e non è successo un cazzo di persona. Ma non si sa, purtroppo è così. Magari potrebbe essere delle morti ingiuste, ma se tu magari queste morti, beh, adesso veramente sono da un'altra parte, stanno meglio di qua. Così è fatto, per carità. Non è raccontato come fascico. Comunque, ho visto molta gente che gli piace addresso, addirittura. Ma purtroppo dentro non ci stanno. Magari uno andava a fumare una mela e per buono è addresso tutto, con questa gente che va a fare il male, quello lì sta sempre fuori. Alla fine dei conti, dopo che passa, uccisi, cavolate varie, sempre la smotte più in gola. Lo so, purtroppo non abbiamo già dentro, lo dico io però. Senta, a Londra, c'era un bambino che l'aveva entrato. Ma che, ho buttato in un altro mare, cazzo, ha detto la radio, dico. Certo, ma non così, no. Non ti si parla di Alumbo, quindi. Ma che, avevi invasi ancora. È un po' di gente si merita quella pazienza. Ora lasciamo perdere che mi meglio va. Allora, a cui vi tu? Beh, vabbè, mi pare che io usavo, sono distrutto qua a casa. Tu basta sapere che sono distrutto, non distrutto per questo casino. Cosa? Lo lasciamo a beccare, non mi sento. Ti senti dove c'è una nuova amica che ha fatto questa cosa? Mia nonna, beh. No, sì, capito. Ah, ok, ascolta, se lo vuoi te lo prendo io di mare, era uno qua che non lo uso. Cos'è? Questo era un vecchio bifuso che non era dettaggio modificato. Però fatto perfettamente buono di uso, eh. Se lo vuoi, da 1000 watt in AM e quasi 2 kg fatti in banda laterale. No, ramada. Quanto c'è l'AM? Esatto, di origine dalla 600, poi modificata proprio più grossa. C'era un sacco di anni questo collegamento, c'erano quasi 20 anni, però fa che è una vera via, modificato, cazzo, sono come ho detto, in certi momenti era già 2 kg la prima laterale, se no è un 1008 così, più o meno, 1008, 1009. Qualcuno 131 è il 171 è piccolino, era un 100 fatti. BV 2001 era il più grande della ZG allora. Capito? Dava 600 watt e 1200 malattie. Però questo è stato modificato. E lo da 1000 AM, quasi, molte volte 1009, 1008, 1009 in malattie. Ma si può abbassare, Fabri? Sì, questo è già 4 lavorazioni. Puoi scendere 500 AM. Capito? Però questa qua è stata modificata, c'è solo di lavorazione, è da 500, 1000 e poi il mandatore è da 1000 e 1008. Certo, io più di 500 mi sono perso. Allora metti 40 insieme. No, meglio di no. Meglio di no, prima di andare con 40 insieme. Sono stati là, la sempre bella, c'è la tavola di ricambio, è lusso. Poi diciamo che come c'è non vale niente, però è perfetto, non nuovo, è un gioiello, ma tutto veramente lusso. Ha modificato un amico, l'ha portato a quella parte lì, capito? Infatti io con la 941 con direttiva è stato sferico, Prezzo. Questa non è un caso, questo si può dare non più di 300 euro, ma perché è stata fatta la modifica, capito? Però non è una parola che rimane, perché è diventato il padre, è nuovo, perfetto, c'è un graffio, è stata la modifica non potete fare a regolarsi, perfetto, non esce in armonica, niente, brusso. Però diciamo che lo utilizzi solo quando devi andare per la vita a città della Gaffiera. Che spagato. E già andavo. No, a me no, non ti ha fatto un po' così, no, se da un numero così, ancora di meno. Sai, non ho il BV, c'è la pensione della ZG, l'ho fatto scambio con un amico, mi ha dato una cosa e gli ho dato qua. Ma voi siete qui, praticamente, che hanno un po' di 50 euro, che vanno bene, dalle 15 anni, incoraggio alla 180 km, e poi c'è il tema laterale, quindi è una potenza più o meno, ma andiamo a bene in città. Chi sono in piazza? Non lo vorrei, non l'ho preso, pazienza. Chi sono al volare, così, ci andava per me. Stava appena, quando vedo un pipale, una portarella, a cui si anda. Allora, quando antenni così, passati sulle finestre da genere, qui crea sicuramente ti guai a un po' di persone, sicuramente, capito? E quindi devi mettere un'antenna decente, non è un'altra, non è un casino, perché potresti rompere le palle, capito? Se io ti attacchi un chilowatt e mezzo, due chilowatt, e se non ce l'hai già passato bene, ti già ti preparati, E poi la rubrica. Beh, vabbè, è giunta l'ora. E di scoprire rompere la palla a tutti. È giunta l'ora, dai. Buonanotte, proprio, ci sentiamo domani. Quando puoi chiudere. E la tua là, la sentiamo in questi giorni. Io la so sempre, ascolta, la so libero. Ci sentiamo, buonanotte, a domani. Bye bye. Bye bye, ciao ciao.